gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sa, che faccia come vivo. Chi sa, e sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, eccome vivo, e vivo! Di